Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Questo giro tondo d'anime, chi si volta è perso e resta qua. Lo so per certo, amico, mi son voltato anch'io, e per raggiungerti ho dovuto correre. Ma più mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti anche se tu non ci sei più, se tu non ci sei più. E dimmi perché in questo giro tondo per scrollarsi via di dosso quello che c'è stato detto e quello che oramai si sa. E allora sai che c'è, c'è, che c'è, c'è che prendo un treno che va a paradiso città e vi saluto a tutti. Salto su, prendo il treno e non ci penso più. Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu seduti. Destinazione paradiso, paradiso città.